F. Ascolta e indica la parola che senti. 1. Vorrei un telo di spugna. 2. E adesso basta. 3. Vanno in ferie. 4. Espongono una tela del Pinturicchio. 5. Ha tinto i capelli.